La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato al patriottismo finanziario. Nella storia del nostro paese, infatti, vi sono stati importanti casi in cui si è fatto leva sul patriottismo degli italiani per sostenere il nostro ingente debito pubblico. Ne parliamo con Daniela Felisini, docente di storia economica all'Università Tor Vergata di Roma. Nei giorni scorsi, per dare un segnale a sostegno dell'economia nazionale, alle prese, come sappiamo, con una grave crisi finanziaria ed economica, è stato lanciato il cosiddetto BTP Day. In sostanza si è fatto leva su quello che potremmo chiamare una sorta di patriottismo finanziario per dare un segnale di fiducia nei confronti dei nostri titoli pubblici. Nella storia del nostro paese vi sono stati altri importanti casi in cui si è fatto leva sul patriottismo degli italiani per sostenere il nostro ingente debito pubblico. Accadde ad esempio in occasione del grande prestito lanciato dal Tesoro italiano nel 1917, dopo la sconfitta di Caporetto, quindi nella Prima Guerra Mondiale, una delle pagine più buie della nostra storia. È il terzo anno della Prima Guerra Mondiale. Il 24 ottobre del 1917 gli austro-tedeschi sfondano il fronte dell'Isonzo a nord e accerchiano a Caporetto la seconda armata italiana, composta dal quarto e ventisettesimo corpo d'armata. È una disfatta. L'esercito nemico avanza per 150 chilometri in direzione della pianura padana e raggiunge Udine in 4 giorni. La battaglia vede l'esercito italiano subire ingenti perdite umane e materiali. La disfatta di Caporetto provoca il crollo dell'intero fronte. La ritirata si arresta solo l'11 novembre del 1917 sulla linea del Piave. In seguito alla disfatta, Luigi Cadorna venne sostituito dal generale Armando Diaz. La disfatta di Caporetto, anche al di là dei risvolti militari, ha un notevole impatto sull'opinione pubblica. Francesco Saverio Nitti, ministro del Tesoro nel nuovo governo presieduto da Vittorio Emanuele Orlando, insediatosi proprio dopo la disfatta di Caporetto, assume il compito di gestire l'emergenza. La situazione è drammatica. Nitti opera in un clima di incertezza e di sfiducia degli operatori e di mercato sospeso per effetto del conflitto mondiale. Situazione che aveva già indotto molti clienti a ritirare parte dei loro depositi dalle banche. Vi si aggiungono ora le conseguenze della sconfitta di Caporetto. Nel dicembre 1917 viene lanciato il quinto prestito nazionale, con l'obiettivo di raggiungere almeno i 6 miliardi di lire di sottoscrizioni. Emesso a 86,5, aveva un rendimento effettivo del 5,78%, superiore dello 0,23% a quello dell'emissione precedente. In questo contesto Nitti si impegna personalmente, attivando tutti gli strumenti della propaganda di allora. Scrive al governatore della Banca d'Italia, Bonaldo Stringer, e gli suggerisce di pubblicizzare il collocamento dei titoli pubblici italiani attraverso i giornali. Vengono affissi manifesti di propaganda in tutte le città. Il collocamento viene prorogato di alcune settimane, ma alla fine l'obiettivo è raggiunto. Di tutto questo parliamo, di questo precedente di patriottismo finanziario, con la professoressa Daniela Felisini, che oggi in studio con noi, docente di storia economica all'Università Tor Vergata di Roma. Buonasera professoressa, grazie. Buonasera. Allora, questo precedente di patriottismo finanziario, in quale contesto si colloca e quale fu il ruolo di Nitti? Comprendere il contesto è importante proprio perché parliamo di patriottismo, il concetto di patria va sottolineato, la Grande Guerra è considerata il completamento del processo del risorgimento nazionale. È una guerra a cui l'Italia ha scelto di prendere parte in modo molto contrastato. Certo. Manifestazioni di piazza, discussioni parlamentari, campagne di stampa molto aspre avevano caratterizzato la contrapposizione tra neutralisti e interventisti. Nel maggio del 1915 l'Italia, alla fine, era entrata in guerra a fianco dell'Intesa, quindi di Gran Bretagna, Francia e Russia, contro i paesi con i quali era precedentemente alleata nella triplice, Austria e Germania. Dunque una guerra che rappresenta un'esperienza molto, diciamo, anche lacerante nella nostra storia. È un impegno imponente. Il capo di Stato Maggiore Luigi Cadorna dispone di oltre 1 milione di uomini. Sono armati con quasi 1 milione di fucili, 620 mitragliatrici e oltre 2.200 pezzi di artiglieria, hanno 3.300 automezzi e il supporto di oltre 200.000 quadrupedi. Dunque anche l'impegno materiale, di risorse, in termini di mezzi e di risorse, certo, è imponente. Il fronte si snoda sul confine tra Italia e Austria, in zone prevalentemente montuose del Veneto, del Trentino, della Venezia Giulia. Subito ha inizio la lunga serie di battaglie detta dell'Isonzo e anche sul fronte italiano, così come nelle altre aree europee, si instaura la famosa guerra di logoramento. Con risultati tragici sul profilo delle perdite umane. La guerra va avanti nel 1916 con sorti alterne tra i due fronti italiano e austriaco e gravi perdite in entrambi gli schieramenti. Nella seconda metà del 17 i tedeschi, alleggeriti un pochino sul fronte orientale rispetto alla Russia, che sta avviando un processo rivoluzionario che culminerà nella rivoluzione dell'autunno del 17, decidono di intervenire sul fronte italiano per sostenere l'alleato austriaco che versa in gravi condizioni. Cadorna sottovaluta i segnali che preannunciano l'intervento tedesco, tanto che il 24 ottobre del 17 l'esercito italiano è colto di sorpresa. Ecco, e qui siamo alla famosa disfatta di Caporetto, che anche nell'immaginario collettivo degli italiani è una delle pagine più buie della nostra storia. Tanto che, Caporetto è diventato quasi un termine comune, un sinonimo di disfatta, di rotta, di sconfitta irreparabile. Si parla di non solo di 10.000 morti, ma di 270.000 prigionieri e di un fronte che si sfalda con centinaia di migliaia non solo di militari, ma anche di civili terrorizzati che iniziano a ripiegare verso ovest. Ecco, in questo contesto Nitti cosa fa? Allora, in questo contesto vi è un ricambio dei vertici molto tempestivo. In pochi giorni si forma il nuovo governo presieduto da Vittorio Emanuele Orlando. Soprattutto Cadorna viene sostituito da Armando Diaz. Cadorna è ritenuto responsabile della sconfitta ed è molto impopolare anche presso le truppe. Il nuovo governo immediatamente si accinge ad affrontare il gravissimo problema della riorganizzazione dell'esercito e della razionalizzazione della produzione bellica, ma per farlo ha bisogno di risorse. Pensa di ricorrere nuovamente a un prestito pubblico, ma in quella situazione fare nuovamente ricorso al mercato del risparmio appare piuttosto difficile. Quindi è una scelta coraggiosa, è un'operazione coraggiosa. Vediamo chi è il protagonista dell'operazione, ecco. Quindi Nitti. È il nuovo ministro del Tesoro. Nitti è un uomo che ha avuto un ruolo importante nella storia italiana al di là di questo episodio. In quegli anni è un personaggio di primo piano sulla scena politica, è un meridionalista, ha lavorato con Giustino Fortunato, proviene da una famiglia meridionale di ideali patriottici. Tra l'altro è il primo meridionalista che ricopre incarichi ministeriali. Nel 1911 era già stato ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio nel governo Giolitti. È un economista riformista, è l'uomo che ha dettato i profili dell'intervento pubblico nell'economia di quegli anni, con un'impronta destinata a durare. E quindi si assume l'onere di attivare questa operazione finanziaria coraggiosa dato i tempi. Certo, è anche un uomo molto consapevole del proprio valore politico. Quando viene incaricato, riceve l'incarico di ministro del Tesoro, scrive: in questo modo io potrò essere il vero arbitro del governo e l'animatore della guerra. Certo. Dunque è consapevole del proprio ruolo, delle proprie capacità, anche del proprio carisma. È un uomo all'apice della propria carriera politica in quel momento, a 50 anni, è un uomo che non teme le contraddizioni, scrive su tanti giornali, insomma, anche una personalità molto forte. Ecco, e si dimostra anche molto abile nell'utilizzare gli strumenti di propaganda di allora. Certo, è anche consapevole però dei problemi del mercato finanziario di quei tempi, quindi sa che ormai il mercato è, vogliamo dire, sospeso. Dal 14 Infatti, nel timore di speculazione, quasi tutti i governi europei, compresi quelli non ancora coinvolti nel conflitto, come quello italiano, avevano assunto alcuni provvedimenti principali, la moratoria bancaria, ossia la limitazione al ritiro dei depositi da parte della clientela, la chiusura delle borse e la sospensione della convertibilità dei biglietti, ossia il corso forzoso. Sì. In quel contesto Nitti lancia questo prestito. Tra l'altro sarebbe il quinto grande prestito nazionale lanciato dal Tesoro italiano e ha un obiettivo molto ambizioso, vuole sottoscrivere almeno 6 miliardi di lire. Ecco, e quale sarà il risultato di questa operazione così, diciamo, imponente e coraggiosa? Beh, il risultato è ampiamente positivo. Tutto l'opera, diciamo, di propaganda che il consorzio bancario capeggiato dalla Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro mettono in atto ha un vero impatto sul pubblico italiano, che sottoscrive oltre 6 miliardi di lire, per l'esattezza 6 miliardi e 130 milioni di lire. Ci sono attualmente collezioni bellissime, a cui lei ha già fatto cenno, di manifesti, cartoline, sì, pagine di giornali che sono state utilizzate nella così limitatezza dei mezzi di comunicazione di massa del tempo per sollecitare il pubblico risparmio. Si fa appello al senso del dovere, al sentimento delle famiglie dei soldati. Persino viene sospeso il vincolo del cosiddetto assenso maritale, ossia le donne sposate non hanno bisogno della firma del marito per sottoscrivere i titoli. Mm-hmm. Quindi è una misura. Con quelle risorse, questa forse è la nostra osservazione conclusiva, il governo procede alla riorganizzazione delle forze armate che consentono all'Italia, unitamente al supporto piuttosto limitato di forze militari ricevuto dagli alleati Francia e Gran Bretagna, non solo di resistere alla campagna con cui gli austriaci nel 1918 tentano di dare all'esercito italiano la spallata finale dopo la disfatta di Caporetto, ma anche di contrattare e di vincere sul Piave e a Vittorio Veneto, una sconfitta che costa agli austriaci 150.000 morti, tanto che il 24 ottobre del 1918, a un anno esatto dalla sconfitta di Caporetto, inizia l'offensiva finale italiana, in cui l'Italia usa anche mezzi marittimi, aerei, quindi non solo l'esercito tradizionale, e nei primi giorni del novembre del 1918 c'è la vittoria. Bene, quindi abbiamo appreso da questa interessante conversazione che grazie a questo lontano precedente di patriottismo finanziario l'Italia ha vinto la prima guerra mondiale. Grazie professoressa e buona serata. Grazie a voi.